Sconvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Splendida rovesciata di Salas. Porta a Cidu a Salas. Guarda che gli ha fatto. Che sei razziale. No. Bravo. Ma gli è successo? Scontri sui esperti? No. Se stava a mangiare suppli quando quel sosso del cielo infilava la palla in croce dei pali. Allora la palla di Risi è rimasta incastrata qua. Fabio, non mi fare così. Fabio, fatti forte, non mi abbandonare. Vedrai che pareggia. Non pensarci alle cose brutte. Non pensare a Roma Lecce. Pensa a Bruno Conti, a Farcao. E sputero sto supplì di portarci tua. Salas, prova ad andare lui. Uno contro uno, cerca il fondo, Salas. Dai, Salas, prova la Lazio ora. Che gli facciamo i bossi a sta rometta. Forza, coraggio. Se non mi spinge, allora è inutile. Ma io sto spingendo, dottore. Ma che c'entra lei, signora? È Sergio Conceição che non spinge sulle fasce, non mi fluidifica. Lei respiri sempre, signora Bellizzoni. Uno, due, uno, due. Subito, poi Nedved. Ancora Nedved, pallaccio di Candela su Nedved. Calcio di posizione per la Lazio. Allora, Giorgio De Luca ha scovato questo... I tifosi 1999, neri parenti, De Sica, Mattioli e lo scomparso Angelo Bernabucci, tanto per introdurre uno dei temi caldi di questo venerdì, che è la porta di tre, almeno tre grandi partite. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Conosci il film, no? Eh? L'hai visto, I tifosi? Beh, il film forse non l'ho visto, penso, però insomma che il derby sia il derby di Roma, anche perché insomma buona parte della cinematografia è romana, no? Roma è la città italiana più forte nel cinema, esattamente come Milano è la città italiana più forte della moda. E insomma c'è una lunga storia di riferimenti, di rimandi cinematografici legati al derby di Roma, evidentemente. Secondo me lo sai, il tifoso, l'arbitro, il calciatore, insomma, però, ma sì, ma ce ne sono mille straordinaria della giacca bicolor, sì. Franco che tirava dalla curva all'altra fingendosi romanista o laziale, alla fine finisce accerchiato da tutti. Sì. 800 24 00 24, questo è solo uno dei temi di cui parleremo, perché questa sera c'è un Napoli-Inter che tutti continuano a ripetere quasi come un mantra: non è l'ultima spiaggia con vista sulla Champions League. Se non è l'ultima spiaggia, le assomiglia molto. Aspettiamo domani un Juventus-Atalanta che per me è la partita più sfiziosa, intrigante, quasi erotica dell'intero weekend, vista la condizione delle due squadre. Allora, hanno parlato Allegri e Gasperini, che sentiamo. L'Atalanta sta facendo molto bene, c'è da fare complimenti a Gasperini, alla società, perché sta facendo vedere giocatori giovani molto bravi, come ci sono in Atalanta, ci sono anche in altre squadre, e sta dimostrando che può stare al momento insieme a quelle che stanno in testa al campionato. Poi il campionato è lungo, io alla fine credo che i valori delle squadre poi alla fine la farà la classifica il 28 maggio. Beh, si può battere, perché l'hanno dimostrato l'Inter, quest'anno il Milan e il Genoa domenica scorsa, quindi è possibile, però sul suo stadio ancora non c'è riuscito nessuno, e credo anche che la Juventus è di gran lunga la squadra più forte del nostro campionato. Beh, un gasp bello carico, me l'avevamo già sentito anche ieri. Un problema per noi sarà il fatto che dovranno stare attenti, che dovranno alzare il livello di concentrazione, e in questo stava tutta la sua soddisfazione. Intanto sai che Renzi e Grillo, ora siamo in attesa del referendum, sai che Renzi e Grillo sono comparsi nel presepe di Napoli, San Gregorio Armeno, no? Giorgio De Luca mi ha detto prima, non poteva essere altrimenti. Ma lì devo dire la verità, c'è comparsa anche gente un po' meno importante di loro, eh. Io ho ricevuto una meravigliosa statuina l'anno scorso, tra l'altro clamorosamente rispondente al vero, quindi mi meravigliava che non ci fossero, ecco, Renzi e Grillo sono sicuramente in mezzo come tutti i personaggi più famosi e meno famosi, però sì, insomma, diciamo che insomma era abbastanza logico che fosse così. Senti, ma invece Allegri e Gasperini dove li mettiamo, per esempio, di San Gregorio Armeno? Beh, Allegri nel presepe c'è sicuramente, almeno non credo che ci siano grandi dubbi. Gasperini, se continua così a fare quella stagione che sta facendo, c'è diritto, perché insomma l'Atalanta sta scalando le vette della popolarità, insomma sta diventando una storia realmente, realmente di tutti, non soltanto degli appassionati di calcio e degli esterni. Sì, grande trasversalità per l'Atalanta, per cui tutti facciamo un po' il tifo perché giochi in modo meraviglioso per i giovani italiani, per tutte queste cose che conosciamo. Anche banalmente l'altro giorno, per dirti, no? la partita di Coppa Italia, insomma, al netto dei problemi del Pescara, nessuno adesso sta qui a dire che il Pescara sia Real Madrid, però l'approccio alla partita che ha avuto l'Atalanta anche con le secondarine l'altro giorno, la condizione fisica è impressionante. Sì, è veramente impressionante. Sì, claro, hai ragione. Poi se basterà, non so, insomma, questo ovviamente perché ha ragione Allegri, poi alla fine nella maratona del campionato i valori si livellano, ma io continuo a pensare che la qualità sia alta. Quella di Genova, il primo tempo di Genova fosse stata una specie di ricreazione che la Juve si era concessa e che ha pagato a caro prezzo, e la mia sensazione è che questa ricreazione quindi sarà finita e la Juve tornerà a essere la Juve, però sono curioso anch'io. E certamente questa partita non è il massimo che potesse capitare dal punto di vista del calendario d'Allegri, penso che è un test, no, sono d'accordo. Non è un test morbido come era successo invece, mi pare, dopo la sconfitta contro l'Inter, ci fu Juve-Cagliari, il turno infrasettimanale. Stavolta insomma è un test abbastanza impegnativo, molto impegnativo. Intanto non commenterai le gesta di Salah nel derby di Roma perché si è fatto male e poi c'è la Coppa d'Africa. Morale, magari per una decina di partite, Roma senza Salah a partire dal derby. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. 800 24 0024 numero verde. Tutti convocati. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Tutti convocati. Dentro Milik, fa il movimento, palla per Hamsik! Hamsik! Avanti il Napoli, 1-0 Marek Hamsik, 1-0 Marek Hamsik. Altra palla messa dentro per Icardi che vuole girarsi, Icardi un po' di spazio, Icardi! Mauro Icardi, 2-1, 2-1. Ci sono tanti calciatori forti all'Inter, come noi abbiamo tanti calciatori forti, speriamo che sarà una partita... una bella partita e che vinceremo questa partita perché ci sono tre punti importanti per noi. Mertens, area di rigore, uno contro uno, Mertens a giro, ancora Donnarumma, mano aperta, Bakayekon rimette in porta il pallone, rimette il Napoli avanti, 3-2 per la formazione di Sarri, 3-2 per la formazione di Sarri. Parte il cross, colpo di testa, Perisic, il pari dell'Inter, un avversario forte, un avversario che gioca bene, un campo difficile, dai nostri avversari sappiamo cosa attenderci, ma sappiamo anche cosa aspettarci dalla nostra prestazione, vogliamo il massimo, ci siamo preparati bene e quindi scenderemo in campo per cercare di vincere. Sì, però questo è il passato, il presente è la sfida tra la settima e l'ottava in classifica, cosa abbastanza impronosticabile dopo 14 giornate. Pierluigi Pardo, salutiamo insieme mister Ottavio Bianchi. Certo. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Beh, insomma, abbastanza bene. No, io allora la invito subito a rispondere, mentre vorrei che, sto leggendo i messaggi, vorrei che l'Atalanta e Gasperini rispondessero sul campo a Max da Crema che scrive la Juve tornerà a fare la Juve solo perché il gobbo Gasperini ha già fatto sapere che si scanserà. Non so come faccia a saperlo Max da Crema, ma vincesse l'Atalanta lo aspetto al telefono. Che Max tristezza, da Crema. Mamma mia. Che tristezza. Ah, sì, no, ma che tristezza anche perché anche ammesso che Gasperini sia gobbo. Ma sì, gobbo. Ma Gasperini dai, ma di che cosa stiamo parlando, no, Pardo? Di cosa stiamo parlando? Il nelle giovanili della Juve, ma oggi, ma sì, di fronte alla storia più incredibile della sua carriera, perché tale è in questo momento, ha fatto grandi cose al Genoa, ma diciamo, una striscia così incredibile di risultati con una squadra medio piccola, così sorprendente, non l'ha mai avuta nella sua vita. Ma se voi foste Gasperini, vi vorreste scansare? Ma per cortesia. Se scrivete una roba del genere, ma che idea avete di voi stessi? Perché se voi pensate una roba del genere, vuol dire proprio che voi vi scansereste, per chissà quale motivo, che poi quale può essere un motivo? Ti regalano una Bravo? Cioè, quale può essere? E vorrei che questo ascoltatore ce lo dicesse, adesso lo abbraccio, non è che l'ho preso di punta. Però, però basta, ma è ora di basta. Ma, Come si chiama l'ascoltatore? Si chiama Max da Crema. Ecco, Max da Crema, tu pensa, se tu fossi Gasperini in questo momento, ti scanseresti. Il momento più bello e più incredibile della tua carriera, ti vai a giocare una partita del genere e ti scansi perché? Ma non ti scansi neanche per un milione di euro. Ma perché ti dovresti scansare? Al di là del fatto che lo scansarsi è una boiata in assoluto, ma anche volendo pensare che uno in certi momenti si possa scansare, ma ti scansi in un momento come questo? Oh, vabbè. Adesso voglio far rispondere a Ottavio Bianchi, però vi do una notizia che mi lascia basito, perché in questo momento non c'entra nulla col calcio. Il campione del mondo di Formula 1, Nico Rosberg, ha annunciato, lo batte la BBC, il suo ritiro dalla Formula 1. E questo mi lascia basito. Però torniamo al calcio. Mister, possibile che si debba vivere nel calcio italiano di queste cose? È ancora possibile nel 2016 vivere di queste cose? Purtroppo si vedono anche cose ben peggiori, perché le abbiamo creato noi questo calcio fasullo, È inutile che ci nascondiamo, parliamo quando succedono delle cose gravi e sono pronto a parolone, parolai, e dicono faremo, non facciamo. Però io sono sempre lì che aspetto che lo stadio sia pieno di bambini con la famiglia, sono sempre sto ancora aspettando che si vada al derby, una partita qualsiasi, applaudendo le giocate e rispettando l'avversario, sto ancora aspettando che le dichiarazioni e i tifosi facciano gli appassionati della propria squadra, non facciano violenza e giù di lì. Ma sto invecchiando, ma questo è il mio desiderio, penso che me lo porterò dietro. Io vado in giro, sono stato in tante parti del mondo e quando vado in Italia non ci vado quasi più, anzi più, e quando vado all'estero mi diverto ad andare a vedere la partita di calcio, perché è il calcio che io avevo preso da bambino. Certo. Lo sa perfettamente Pardo, girando l'Europa per commentare le partite di Champions, lo so io guardando le partite di Champions e respirando comunque il clima di certe cose. Mister, quanto a Napoli-Inter, sono due squadre in cerca d'autore, direi. Sono due squadre che nessuno si aspettava di trovare settima e ottava alla 14ª giornata. Beh, del Napoli proprio no, perché Napoli è molto tempo che è lì nelle zone alte. Lei sa che se si frequenta le zone alte della classifica, l'anno buono capita, perché non è solo dall'anno scorso, ma anche in precedenza la squadra era stata fatta per vincere. Sì. È difficile trovare una squadra che vinca se l'anno prima ha giocato per non retrocedere. Non mi è mai visto, perché se noi parliamo, andiamo anche indietro con il tempo, il Verona, la Lazio, tutte squadre, il Cagliari, era una squadra che l'anno prima era arrivata seconda o terza, giocando molto bene. E il Napoli veramente mi ha lasciato un po', sono un po' in difficoltà a commentare il Napoli, perché io lo metto sempre dentro tra le candidate, e domani già all'inizio del campionato sono due squadre che si giocano la stagione. Certo, e questo è difficile dirlo, però è la verità, si giocano la stagione. È verissimo, perché, nonostante dicano che non sia così, no, Pierluigi? Sì, ma io volevo chiedere al mister se, visto che il problema del Napoli, lo dico anche i numeri, è un problema legato all'assenza di Milik, cioè da quando Milik si è fatto male il Napoli non ha trovato più soluzioni. Se secondo lui c'era una strada alternativa, oppure se questa roba qui è una roba imparabile, cioè non avendo il Napoli in sostituto di Milik, io sono abbastanza convinto che appunto che con un attaccante di buon livello il Napoli oggi avrebbe sicuramente molti punti in più di quelli che ha, però penso anche che ci sia stata un po' di sottovalutazione del problema, perché il fatto che non ci sia una seconda punta, che Gabbiadini che stasera gioca gioco forza, perché non c'è nemmeno il falso 9 Mertens. È così imparabile, è così irrisolvibile il problema del Napoli fino a quando non rientra Milik o non si compra un attaccante. Ma questa è una domanda interessante. Io non faccio critiche a Napoli, dico come la penso io. E se Milik non avesse fatto bene, come poteva essere, tantissimi giocatori anche più importanti di questo ragazzo all'inizio in campionati italiani si trovano spesso in difficoltà. Lui è entrato, ha fatto bene, però è una squadra che vuol vincere un campionato. Se ti va fuori un giocatore e dici sono out, mi sembra un po' pericolosa la faccenda, no? Perché io parto dal concetto del gioco di squadra. Io il mio modo di pensare è che non solo cambio formula e cambio sistema e modulo di gioco durante una stagione, ma la cambio in partita. In partita. Io sono cresciuto con questa idea. Se andiamo a vedere tutti i giochi di squadra, dalla pallacanestro, la pallamano, la pallanuoto, al rugby, nessuno è ancorato ad un modulo di gioco. Ah, se io gioco così e se mi manca l'ala, ho perso. I miei vecchi allenatori, che allora giocavano con il libro lo dovevano inventare loro, non è che andavano ad acquistare Beckenbauer. Mi sembra riduttivo pensare che una squadra che vuol vincere, se il Barcellona o il Real Madrid gli manca Messi, devono vincere per forza lo stesso. E quindi però, mister, questo significa che Sarri qualcosa in più in queste settimane poteva fare? Ma io dico che io non lo conosco Sarri, non so neanche, non so come allena, non posso permettermi di dire, ho simpatia, ho visto qualche partita per televisione l'Empoli che giocava un buon tipo di calcio, così. Però voi mi insegnate che andate in giro per l'Europa, le grosse squadre nei momenti di difficoltà magari non giocano molto bene per voi, ma vincono. Non è che se mi manca un giocatore oppure sono in una cattiva momento vado in campo e mi accontento. Io non mi accontento mai, gioco, trovo soluzioni particolari per mettere in difficoltà l'avversario. Una volta che l'ho messo in difficoltà, ho sicuramente delle qualità dei singoli che in certi momenti li porto in una determinata zona del campo per risolvere la partita, o calcio d'angolo, o calcio di punizione, o fallo laterale, o tutto quello che volete voi. Sì, però sì, che me ne impippo io se sono in difficoltà e io gioco male e se non so, non riesco a trovare lo sbocco perché l'avversario mi ha inquadrato. Poi se gioco sempre in una maniera è molto facile, gli avversari, il campionato italiano, che non è sicuramente tra i migliori, anzi direi che ormai, visto i giocatori che vengono a giocare con noi, che non sono sicuramente di prima fascia, ma non lo sono neanche di seconda fascia, no? Però tatticamente è chiaro che io, che sono una squadra inferiore, tento di metterti in difficoltà. Avete parlato un attimo dell'Atalanta, voi vedete che dei ragazzi italiani gestiti bene e si in campo bene, non solo vincono, ma trovano, giocano bene al calcio, certo, vuol dire che loro sono bravi, ma gli altri sono anche scarsi, ragazzi. Mister, la ringrazio moltissimo. A presto. Ciao, a presto. Buona grazie. Giornata. Grazie Ottavio Bianchi. Intanto vi ripeto la notizia di prima, e che è uscita mentre stavamo parlando con Ottavio Bianchi. Nico Rosberg, neocampione del mondo di Formula 1, ha annunciato il suo ritiro. E l'ha annunciato ufficialmente alla BBC dicendo: ho deciso di porre fine alla mia carriera in questo momento qui. Ne parleremo certamente più tardi, perché è una notizione. 800240024 Borsa. Tutti convocati. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Attenzione però, perché c'è spazio per Mancini, che ha la palla a centrare, ha fatto tutto solo Mancini, che gol! Che gol! Questo della Lazio, 1 minuto 37 secondi, Lazio in vantaggio, che gol! Parte la Roma, sempre di Francesco, lancio del Vito d'Oro, la palla in verticale per Marco Del Vecchio sta per entrare in area di rigore, geniale il Del Vecchio, Del Vecchio punta! Forte Verone, il tiro a tirare! Stanchi. Vincent Candelà, ottimo il tandem ancora con Montella, vai, vai Francesco, ecco Totti, Totti, Totti, palla netta di Meghetta, gol! Gol! Grande Checco, palla netta, 5-1, è il 5-1! Verso Klose, Klose l'appoggio, rete, rete incredibile, proprio lui, la Lazio finalmente al 48esimo. Pjanic a girare, c'è Keita, quasi solo lui a saltare, poi Florenzi con il destro, Florenzi, primo gol in un derby, al primo derby da capitano. Allora, alcuni dei gol di epoca recente, tra i più famosi che hanno segnato il derby di Roma, e noi sai cosa facciamo, caro Pardo? Che facciamo? Lo giochiamo nel crossover di Radio 24 tra Pino Insegno e Simone Spezia, che top, è quello. Top, come dicono i giovani. Come state, ragazzi? Come state? Ma tutto bene, tutto bene. Ciao Pardo. Sì. Ciao ragazzi. Pino, come ciao, stai? Buongiorno, buongiorno. Io normalmente parlo con me una gioia la domenica, ma adesso non c'è Capuano, scattando il cielo. Non mi ci voglio collegare mai, ogni volta mi collego questi o pareggio un altro, segnano la piazza. Come stacca, segniamo al 96esimo. Dimmi una cosa, ma come ti organizzi domenica con Voice Anatomy? Ma cosa fai? Metti la televisione? No, c'ho il fonico, c'ho il tecnico che sono davanti, e mia moglie che autrice anche lì della Roma, e l'altro autore Mauro Peconi, che è anche uno degli attori di Romanzo Criminale della Roma, per cui vedrò le loro facce. Se piangono, ha segnato la Lazio, se fanno le bocche brutte, i cestacci, ha segnato la Roma. Sarà una domenica particolare, poi ho degli ospiti pure importanti, non è che posso trattarli male, quelli non stanno neanche tifosi, cioè uno sì, perché viene pure il capo del consiglio comunale Marcello De Vito, che è della Roma, però viene a farci una passeggiata, ma non parleremo di politica, anche perché è la giornata delle votazioni, poi viene la Foglietta che sta all'Eliseo, la Piale, ma insomma cerchiamo di fare una trasmissione nazionale, perché per non male Radio 24 non è che presenta Roma e dintorni. Io cerco sempre di essere asettico, lo sanno di che squadra sono, ma se sto parlando di voce o con doppiatore, con un attore, con un cantante, si può goliardare un attimo la cosa, per un attimo, dopodiché insomma sai cosa fa Cruciani, no? Tu sai, sai che fa Cruciani, certo. Cruciani va non so, al cinema, con la figlia, e spegne il telefono per tutto il giorno. Ma con la voce di Zampa e di De Angelis mi fai una roba proprio tecnica, è vero che siamo a Radio Nazionale, ma insomma sono voci conosciutissime anche a livello nazionale, mi fai proprio un'analisi tecnica del timbro? Ma chi l'avete chiesto a me? Sì, no, Zampa, non ho capito la domanda. Pino, ma che la, Pino, ma che la chiedono a me l'analisi del timbro? La chiedono a te, no? L'analisi del timbro, infatti si sentiva malissimo se tu fai l'analisi del timbro, è un macello che posso. Non ho capito niente, si sente un po' male, allora non ho capito la domanda. Ti prego, poi parlatemi piano. Sto atterrato adesso da Treviso, non dormo da due giorni. No, dimmi la domanda. Allora, passiamo alla domenica invece del dottor Spezia, come la vivrai? Allora, prima di tutto non sono dottore, poi guarda, io faccio questo tendenzialmente. Io a un certo punto ho iniziato a allontanarmi dal calcio, perché mi prendeva troppo al cuore, insomma, ecco. Il derby è una di quelle partite che io veramente non riesco a reggere. Da veri non è che sono, come farebbe al 90esimo, no, non voglio più guardare. Guarda, esattamente la stessa cosa. Io a un certo punto non ce l'ho fatta più, insomma, quando ho iniziato a vedere a nastro un po' di partite della Roma, ho visto che ci soffrivo troppo, ho detto no, guarda, non resisto. Roba sociologica. Pino Insegno, il sì. Prototipo del romanista com'è? Cioè, chi è il romanista? Ma sai, a Roma tutti diciamo la stessa cosa dell'altro, cioè il romanista è quello che quando fa il tifo magari non si sentono le consonanti, per cui è i romanisti giustamente dicono la stessa cosa del laziale, perché il laziale è burino, dell'entroterra e laziale replica dicendo no, veramente noi siamo nati a Roma nel 1900 e c'eravamo con noi per 27 Pino, anni. Pino, noi diciamo che siete o burini o pariolini, cioè una delle due. Comunque, categorie sono pariolini. È così. Tutte e due categorie non particolarmente apprezzate, no? L'entroterra ovviamente deve scegliere una squadra che non ha in Serie A. Normalmente il sud sceglie la Juve, lì che sono squadre italiane dell'italiano, e l'entroterra della Lazio ovviamente sceglie maggiormente la Lazio, Roma ovviamente con un articolo in più sceglie la Roma. Ma il laziale è un popolo, sai, di quelli abbastanza sedentari, nel senso è come quando fanno le elezioni, dice come vince poi quel partito che in piazza non c'è mai andato, perché è un popolo che sta a casa, che vota da casa, che decide da casa. Ecco, il laziale è molto comodo in questo, adesso che c'è questo grande entusiasmo dato da questo bravissimo ragazzo che io reputo una persona intelligentissima da sempre, non adesso, perché non sarebbe facile, che Simone Inzaghi, come apprezzo tanto Pioli, al quale ho mandato un in bocca al lupo grande come il mondo, perché è un altro signore straordinario, e il mio amico Bollini che va a Salerno a combattere adesso come nuovo allenatore. Però dico, non lo so, io sono felicissimo di questa situazione, perché è inaspettata, perché chi ha da perdere è soprattutto la Roma in questo momento, che era la squadra che partiva con il blasone di dover vincere il campionato. La Lazio già si era mortificata in un mezza classifica, in un momento di transizione, una società allontana dal tifoso, adesso te ritrovi quarto. E poi tu lo sai che nel calcio vale tutto, al contrario di tutto, prima valgono anche le squadre che io e Pardo modestamente l'avevamo detto, la Lazio, attenzione, perché è una squadra estremamente ben costruita, non è il miracolo di San Gennaro, assolutamente, è solamente una squadra che era in difficoltà perché Keita è tornato dopo due mesi, in generale che è sta roba, dell'altro brasiliano si impegna, non si impegna, e che Candreva va via, meno male ho trovato la vita mia, tutto era così, l'allenatore quattro dicono di no, allora accontentiamoci di chi rimane dentro casa, cioè era diventata una cosa brutta, e la bravura è stata veramente a questo punto l'intelligenza di costruire quello spogliatoio che solo Al Pacino in ogni maledetta domenica era riuscito a costruire. Simone Spezia, allora, laziale invece, guarda, da parte del romanista. Allora, guarda, io ti posso dire questo, che anche a sentire Pino, poi ti vorrei fare un discorso un po' più generale, anche a sentire Pino, io la cosa che ho notato sempre è che loro sono molto più accaniti dei romanisti, cioè la percentuale di laziali accaniti è molto più alta di quella dei romanisti. È vero? Ho trovato tantissimi romanisti come me che sono morbidi, cioè il laziale invece è morbido. Io vivo Roma, io sono posto di Roma, io sono della Lazio, lo stanno comunque tutti, comunque guarda c'è una questione, parla, perché io sono tipo per Radio 24 e sono diritto di parlare. Quando io cammino per Roma io posso fare una mappatura, perché lo stanno tutti di che strada sono, ringraziando il cielo io sono sempre stato onesto intellettualmente, sì, perché non ho mai sputato sulla maglietta nessuno. Ho sempre apprezzato i campioni, conosco benissimo Francesco Totti e posso spezzare 10.000 lance a fuori di quel campione, per cui non mi vergogno di questo. La mia onestà mi ha portato anche certe volte ad essere combattuto dalla curva, perché non ho menato a Gagliani in diretta una volta, non ho sputato a Costanzo, non ho dato un calcio nelle palle a chi sta chi, perché so così, e mi hanno scritto Pino il segno sei indegno, ho detto vabbè, però non posso sparare. Però vedi come te scaldi, Pino. Ma no, mi scaldo adesso perché sto giocando e sto facendo spettacolo per far fare tutto a Stavicchi. Ma insomma, se uno deve... io sono un ospite, un bravo ospite, e faccio l'ospite, capito? Però ti dico, no, il posto di Roma è sicuramente Roma. Sì. Roma è la Roma, da un certo punto di vista, più popolare, però c'è quell'accaloramento che sanno tutti. Il Laziale, sì, ripeto, è più discreto. Non è più discreta, attenzione, perché pure il Laziale si cattivisce. Vabbè, ma c'è Pino, un po' questo complesso di inferiorità che avete, no? C'è un po' questo complesso di inferiorità che avete, insomma, no? Aspetta, fermi tutti, ho il traffico e poi Pardo fa l'arbitro, ok? Esatto, poi Pardo fa l'arbitro. Tutti convocati. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Tutti convocati. Allora, tra Pino Insegno e Simone Spezia, dai Pardo, fai l'arbitro. No, ma non è questione di fare l'arbitro. Allora, Pino ha ragione, secondo me, sull'elemento tipico del tifoso della Lazio. Che non so se sia pigrizia, non so se sia... uno storico pessimismo, un voler stare con i piedi per terra, la Roma ogni estate, insomma, degli entusiasmi, poi magari col passare degli anni questa cosa un pochino scolorita, però troppo, però Spezia, voi troppo, nel senso che a giugno già avete vinto il campionato, già state in Coppa dei Campioni, già si festeggia al primo posto. Questo leggo ancora, mi ricordo quell'articolo sul Corriere dello Sport. Ma come fai? Ma perché non è il risultato, è la Roma in sé. Cioè, ma perché non è il risultato, è la Roma in sé, Pino, capito? È la Roma in sé. Ma vedi, c'è l'orgoglio romano. Io pure sono romano, non c'entra niente. Cioè, Roma per me nel cuore, io la rappresento con tutta l'anima. La Roma è un altro discorso. La Roma è la squadra, per cui politicamente siamo in antitesi. Ma Roma, guai a chi se la tocca, per carità di Dio. Ah, per carità, figurati. Poi in effetti Roma e Lazio, tutta Italia. Io penso, io gli stavo a Treviso e dico, sto tranquillo. No, mi ferma con le Treviso, fa, e sei Pino che fate domenica, dai. Ma scusate, ma sto a Treviso. Ma che squadra c'avete qui voi? C'è del Treviso, dove sta? Ma perché mi devi rompere le palle a me? Vabbè, ma siete pronti, ragazzi? Perché adesso, prima di salutarvi, vi faccio fare il pronostico a Pardo, dato che faccio la schedina. Ma devo fare la schedina, ragazzi, devo fare la schedina. Lo so che devi fare la schedina, ma io parto... facciamogliela fare a loro. Prima facciamoglielo fare a loro il pronostico e vediamo questa sottile gara dai, di scaramanzie. Vado io. Vince la Lazio. Allora, non faccio un pronostico. Vince la Lazio sicuro proprio. Sicuro come l'oro. Ma guarda, tu stai giocando. La cosa poi dirà, non ho detto che vinceva la Lazio. Invece sta fa il scaramanzio. Devi essere serio. Che vince? Vince la Lazio, dico davvero, non sparo sul risultato, ma vince la Lazio. Pino? Okay, Pino? Sono d'accordo con Spezia una volta tanto. Ah, vedi, quindi abbiamo già risultati di schedina, grazie ragazzi. È ovvio che voi laziali se staranno toccando qualsiasi cosa, ovviamente se perde lei, non fatta per me, io, sto potere, magari. Però no, la Lazio domenica vince. Sicuro, non sono convinto. Il professor Pardo vincerete alla grande. Vai. Grazie per l'insegno, grazie Simone. Ciao. Grazie Simone Spegno. Baci. Allora partiamo dall'inizio, Pardo, cioè da quella di stasera. Partiamo da stasera. Napoli Inter. Stasera proprio c'è schiantato. Solo certezze. Juventus Atalanta 1. Pescara Cagliari 6. Sei sparito? No, sto pensando tra X e 2. X. Sassuolo Empoli 1. Milan Crotone 1 con un po' di fatica, ma 1. Ci siamo. Lazio Roma. Anch'io penso che la Lazio sia favorita, quindi dico 1. Uno, quindi un plebiscito, ragazzi, sul derby di Roma. Può finire pure 3-0 per la Roma, perché è talmente sottile come equilibri, però la Lazio arriva un filo meglio, poi l'assenza di Salah l'abbiamo detto prima, unita ad altre assenze, secondo me finisce per snaturare. Insomma, dal punto di vista degli effettivi la Lazio arriva meglio, decisamente. Poi è ovvio, la Roma ha certamente un filo di talento in più e quindi può... Però... Però tu dici uno, andiamo avanti così. Fiorentina-Palermo 1. 3-0. 3-0, addirittura esordio di... gli agorini. Col botto. Chievo-Genoa. Chievo-Genoa è un classico pareggio. È un classico pareggio e si finisce poi lunedì con, ovviamente sempre lunedì Chievo-Genoa, ma lunedì anche Udinese-Bologna. Udinese-Bologna potrebbe vincere l'Udinese per festeggiare i 120 anni, addirittura. Hai detto? Quanto farò? Hai detto? Quanto farò? Hai detto? Non ho sentito. Quanto farò? 6, 7, quanto farò? 5. No, manca una partita che è Sampdoria-Torino. Ah, infatti non me l'avevi detta. Non te l'ho detta, me l'ho scordato. Sampdoria-Torino, aspetta, Sampdoria-Torino è chiaramente un over, su questo non ci sono dubbi. Sampdoria-Torino potrebbe essere un X. Potrebbe essere un X. Il notaio De Luca ha scritto tutto. Martedì verifichiamo. Grazie per lui. Già l'ha twittato, non è che l'ha scritto, l'ha già twittato. L'ha già twittato? Pensa che carogna. Ciao Pierluigi, ciao. Ci fermiamo, Massimo da Napoli, Cesare da Ravenna, se volete aspettateci, però è chiaro che subito dopo il GR parleremo della bomba sportiva esplosa proprio alle 14:20. Nico Rosberg, neocampione del mondo di Formula 1, ha annunciato il suo ritiro immediato. A dopo. Tutti convocati. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13:45, hashtag Autotrasporti con Andrea Ferro. Sabato alle 13:15, Container con Massimo De Donato. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. È pazzesco, non ci credo ci sono riuscito sulla stagione la più lunga e con lui come compagno, perché quello lì veramente va fortissimo e sempre, e lotta e prova tutto e vincere contro lui la soddisfazione è ancora più grossa. Veramente ho messo tutto quello che ho quest'anno, tutto, cioè sacrifici ovunque, ho provato tutto, mi sono impegnato, spinto, veramente pensato cosa posso migliorare, spinto e quello è il risultato adesso. Allora, queste le parole di Nico Rosberg 5 giorni fa quando si è laureato campione del mondo. Oggi esce la notizia, 14:15, esce la notizia, Nico Rosberg annuncia: mi ritiro, ho realizzato un sogno lungo 25 anni, lui che ne ha 31, e adesso basta, scendo, non voglio più salire su una Formula 1. Leo Torrini, non potevo non chiamarti, ti abbiamo beccato al volo. Fermo sulla Pero Cormano, notizie del traffico, come sempre c'è una Mercedes ferma per sempre, ed è quella di Nico Rosberg, che ci ha spiazzato tutti con questo annuncio fatto al Galà FIA, oggi in programma a Vienna, dove vengono premiati i campioni del mondo di tutte le categorie quattro ruote. E devo dirti che è una cosa che ha pochissimi precedenti nella storia della Formula 1, ti posso citare Jackie Stewart nel 1973 e naturalmente Alain Prost 20 anni dopo nel 93. Per il resto, da Schumacher a Lauda eccetera, tutti i grandi assi del volante comunque hanno continuato anche oltre la conquista del titolo iridato o di un ennesimo titolo iridato. Esatto, perché nel caso di Stewart e di Prost. Loro invece proprio certo smisero completamente e Rosberg ha pensato di fare come loro. Guarda, con il senno di poi, ti devo dire da interista, che io avrei preferito che si ritirasse Nagatomo, sì, e invece si ritira Nico Rosberg. Però, a parte questa osservazione, forse avremmo dovuto capire qualcosa domenica da quelle frasi che tu hai riproposto adesso, perché si sentiva nelle parole di Nico il senso di chi provava un sollievo, come una liberazione. Bravo, bravo. No? Sai, è stato anche il mio primo pensiero. No, ma poi guarda Carlo, quando lui ha raccontato sempre domenica scorsa a Abu Dhabi, ultimati festeggiamenti, l'angoscia che aveva avvertito quando aveva fatto quel sorpasso, peraltro bellissimo, su Verstappen, no? Io l'ho ascoltato, lui ha detto è stato un momento orribile, perché evidentemente aveva paura di un contatto, di qualcosa che gli facesse sfumare. Nella sua testa, poi anche nella dichiarazione ufficiale che ha reso oggi, aveva già deciso che se tutto fosse finito come sognava, lui non avrebbe più voluto sopportare questo tipo di stress, di tensione, eccetera. Io credo che questa, la tensione di correre con un compagno di squadra più forte, un cannibale, un bastardo in senso sportivo come Hamilton, abbia distrutto questo ragazzo che è riuscito a vincere un mondiale e dice ok, sono sull'Everest, portatemi giù, voglio vivere in Valpadana. No, voglio dire Carlo, perché non è stato neanche giusto in tutti questi giorni a dire ma sì, ha vinto Rosberg, però il migliore, il nero, no? Cioè l'ha distrutto la tensione, ma alla fine ce l'ha fatta lui, eh. Cioè lui adesso si chiama fuori, non permetterà a Hamilton di realizzare la grande rivincita e potrà sempre dire Nico Rosberg che alla fine della fiera, avendo un compagno eccezionale, lui è stato in grado di laurearsi campione del mondo. Io umanamente lo capisco benissimo e ti faccio un'aggiunta, spero che non ci ripensi. Bravissimo Leo, anch'io. Perché poi non anch'io. C'è nulla di più triste se fra due anni dovessimo leggere da qualche parte Rosberg contro la nostalgia, torna con la Red Bull. Perché la sua è una storia molto bella di uno che ha dovuto aspettare tanto, perché non dimentichiamo che questo signore ha debuttato nei Gran Premi nel 2006, 10 anni fa. Oggi noi viviamo nell'automobilismo, vedi Verstappen, l'era dei teenager, no? Dei ragazzini. Questo ci ha messo 10 anni di apprendistato, di fatica, anche di sconfitte. È stato l'ultimo compagno in pista di Schumi, poi si è dovuto confrontare con un fuoriclasse assoluto come Lewis Hamilton. Alla fine ci è riuscito. Ecco, io mi auguro che sia coerente con questa decisione, di sicuro non facile, e che non torni più. Ma secondo te ha fatto bene alla fine della storia? Sai, è una questione di stati d'animo. Io ho conosciuto tantissimi piloti, c'è gente che anche avendo vinto comunque non riusciva a stare lontana dall'adrenalina, il brivido. Uno su tutti, Michael Schumacher, dai. Schumi, per citare lui, ma voglio dire, prendi Alonso, che potrebbe anche essere un candidato per questo posto vacante. Alonso sono 10 anni che non vince un mondiale, 10 anni è una generazione, certo, però è ancora lì. Certo, è ancora quindi lì. Secondo me è ancora tra i tre migliori. Sì, ma voglio dire, non è che vale per tutti lo stato d'animo di Rosberg. Queste sono situazioni, in realtà, molto private, molto personali, molto intime. Adesso l'attenzione si sposterà, caro Genta, come direbbe Pardo, che è un esperto di calciomercato, su quello che fa la Mercedes, sul seggiolino vacante. Beh sì, perché loro hanno di fronte due opzioni opposte. Una è quella aziendalista, cioè abbiamo Hamilton, che comunque abbiamo appena detto essere un crack, no? Sì. E gli mettiamo accanto un giovane tipo quel Wehrlein, che è della scuola Mercedes di piloti, che quest'anno guidava la mano, ha fatto vedere anche buone cose. Comunque facciamo un team tradizionale tipo Ferrari con Barrichello, Irvine o Massa, no? Cioè c'è un fenomeno e poi secondo me è sempre la scelta corretta. Ecco, e questo almeno quella che mi piace. Secondo me potrebbe essere la soluzione, diciamo, più probabile. Oppure c'è quell'altra, noi siamo la Mercedes, abbiamo dimostrato che possiamo vincere anche con un pilota che non sia Hamilton. Allora, io te lo dico perché tanto sono tutte supposizioni, che lasciano il tempo che trovano. Alonso ci va a piedi a Stoccarda. A piedi. Cioè, rinuncia ai 35 camminando all'indietro. Sì, sì, sì. Rinunciando ai 35 milioni di dollari all'anno che prende dalla McLaren, eccetera, anche perché avrebbe la possibilità di giocarsela di nuovo dopo 10 anni con Hamilton, che avviò, diciamo così, non il declino, ma comunque mise in dubbio l'enorme talento dello spagnolo quando da rookie nel 2007 andò forte quantomeno come lui, no? Proprio in McLaren. E l'altra opzione, la dico per onestà intellettuale, dovere di cronista, Rosberg ha un passaporto tedesco. C'è un altro pilota che ha un passaporto tedesco col quale la Mercedes... No, Verstappen è olandese. E la prima lettera dell'alfabeto è la stessa ed è Vettel, che ha ancora un anno di contratto con la Ferrari, non ha finora voluto prolungarlo. Io non credo che questo possa accadere, ma allacciamo le cinture, perché se in Mercedes adesso tutti i piloti onestamente vorrebbero andare a guidare quella macchina. Vabbè, lì questo è evidente, dal primo all'ultimo, quindi sai, si apre una partita interessante. Io personalmente, ripeto, conoscendo un pochino l'ambiente, immagino che accanto a Hamilton metteranno questo Wehrlein. Sì, lo hanno cresciuto, sì, loro, sì, sì, sì. È uno che magari ti può vincere due o tre corse. Ma mettere non... invece Verstappen, no, stella Verstappen nascente. Sì, ma è un uomo della Red Bull, la Red Bull non lo mollerà mai. I Red Bull sono convinti che l'anno prossimo con le nuove regole vinceranno loro. Verstappen ha un contratto per altri 5 anni con la Red Bull, per cui... Mi sembrerebbe molto strano che i bibitari all'improvviso decidessero di privarsi del più fulgido talento emerso in questa stagione. Se lo sono costruito loro in casa, capito? C'è chi scrive, domanda, Rosberg come Stoner? Cioè trittato dalla pressione di questa... Beh, adesso io non seguo da vicino il mondo delle moto, ma mi sembra che Stoner... Adesso non voglio mancare di rispetto a Nico, però molto probabilmente Stoner sulle due ruote era, non lo so cosa faccio adesso, un fenomeno. Sì. Rosberg è un ottimo pilota che ha meritato questo titolo, però voglio dire, Stoner ha vinto unico con la Ducati, prima di lasciare la Ducati ha vinto gli ultimi 3 Gran Premi dell'anno, è andato sulla Honda, ha vinto il mondiale, poi dopo ha detto io non ce la faccio più per ragione... e si è chiamato fuori. Preferisco andare a pescare, sì. Ecco, è una storia di un dominatore. Quella di Rosberg è la storia di uno faticatore, esatto. Che come ha messo nero su bianco nella dichiarazione che accompagna il suo addio, ha sofferto tantissimo per costruirsi questa impresa. Rosberg non era, al di là del cognome, figlio d'arte, un predestinato. Probabilmente Stoner in motocicletta lo era. Certo, no, cioè, il tuo amico arriva bene che dice che non è in grado di commentare il ritiro di Rosberg. Io ti butto lì l'ultima. Allora, invece di stare qui l'anno prossimo e magari un altro anno ancora a prenderle da Hamilton, visto che non mi riuscirà più questo miracolo che mi ha consumato l'anima, allora è meglio darla su. Sì, questo è il ragionamento che ha fatto Nico, e ripeto, se lui, come abbiamo detto poco fa, pensa sinceramente questo, ha fatto bene, e io spero, di nuovo insisto, che non ci ripensi, perché questo è il gesto di un essere umano che dice guardate, io sono arrivato al top dello stress. Ce l'ho fatta, ma mi rendo conto che non riuscirei mai più a governare questo tipo di pressione nella mia vita. E quindi mi chiamo fuori. Sì, sì, certamente. È la lettura più normale. T'ho detto prima, anche se erano storie diverse, se in oltre 60 anni di Formula 1, prima di lui, solo 2 campioni del mondo in carica, Stewart e Prost, si sono chiamati fuori, qui siamo di fronte a un episodio che fa storia, perché non è una cosa... Poi, in presenza del primo titolo vinto a 31 anni, capito? Appunto. C'è tutta una storia nella storia. Io rispetto moltissimo questa decisione. Dopodiché, in Ferrari ce ne faremo una ragione e continueremo a arrivare nelle retrovie. Ma di questo io e Genta parleremo avremo modo di parlare, caro Carlo. Grazie, se ne è tirato Rosberg e invece Nagatomo no, lo dico ai miei amici. Nagatomo no, ma va in panchina stasera, va in panchina. Sì, vabbè, ma non parliamo degli altri, perché mi sono scritto con Stefano Pioli stanotte. Va bene. Non voglio parlare degli esterni dell'Inter, siamo stati. Ne hai già parlato con Pioli stanotte via SMS. Sto pensando a Caleone, Insigne, sto già male adesso. Ciao Leo. Ciao, buona giornata. Grazie Leo Turrini. Qui abbiamo commentato la notizia del giorno, appunto, che Rosberg si ritira dalla Formula 1. Saluto e ringrazio Giampiero Timossi. Ciao Giampiero. Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, con te volevamo invece parlare di calcio genovese già da ieri. Colpa mia ieri. No, ma colpa di nessuno. Ti lancio un primo effetto sonoro, che stiamo parlando di voi, cioè sì. D'archivio. Ferrero. A proposito del numero, quanto vale Muriel adesso? Muriel ha sempre valso molto, perché altrimenti non investivo su Muriel 12 milioni, no? Muriel è un giocatore vero, un giocatore che fa la differenza. Muriel io lo seguo da prima del calcio, mi è piaciuto, ho la fortuna di averlo, l'ho preso che era infortunato, me lo so coccolato, l'ho messo a posto, mi avete criticato e oggi ve la prendete in dal culo. E mo che succede? Se lo vende? Non credo subito, anche perché la cifra che chiede è alta, ma credo che sia giusto così. Il ragionamento espresso in maniera vivace, però è corretto, è assolutamente corretto. E poi credo che Ferrero abbia veramente una grande velocità mentale, e questa gli permette, ha capito in fretta le regole del calcio. Sta cercando una strada nuova, sta facendo bene, può essere simpatico o meno simpatico, però credo che il suo sia un progetto che possa risultare in qualche modo vincente, lo sta dimostrando. Sì, dall'altra parte invece il giocatore del momento è il Cholito Simeone, sentiamolo. Sì, ora che sto guardando è quasi uguale, sì, però differente sensazione sicuramente, per me sto cominciando un momento grandissimo, molto felice, però so che sto tipo in un momento che sto cominciando la mia carriera, no? Esplosione del Cholito, mentre tutti vogliono a cominciare da Napoli, gambe di cristallo Pavoletti. Guarda, credo che collegando i due discorsi, Sampdoria e Genoa, no? In questo sistema calcio italiano, Genova rispecchia un po' quella che è la sua antica tradizione, cioè quella del commercio. Noi a Genova siamo bravi a portare o a scoprire talenti che altri non riescono a valorizzare, o che altri non hanno portato in Italia. La fortuna dell'Inter e del triplete, è inutile negarlo, l'ha fatta in buona parte, in buona misura, il Genoa con Milito e Thiago Motta, insomma, per anni il Genoa e il suo direttore sportivo Capozzucca, uno del quale, insomma, le grandi del calcio sono sempre fidate ad acquistare la bottega di Capozzucca, preziosi a Capozzucca, perché sapevano che i giocatori erano giocatori di valore. Pensiamo anche comunque a Palacio, che ha fatto bene all'Inter e che è arrivato a Genova, che non sembrava un giocatore finito. Lo stesso discorso vale per Muriel per quanto riguarda la Samp, e vale per Simeone, che al di là del nome importante, del padre importante, è un giocatore tutto da scoprire, ma penso anche a molti giocatori andati a Roma come Perotti, insomma, quella è una storia abbastanza differente, una storia differente, ma pensa del Sharawi. Quindi è normale che in questo momento, e questa è la forza di squadre come Sampdoria e Genoa, che devono vivere inevitabilmente un po' l'insoddisfazione, sì, in parte, no, dei tifosi, perché vedono andare via dalla città, dalla squadra, giocatori importanti, che però almeno soprattutto in questo momento per quanto riguarda il Genoa, questa politica di preziosi ha permesso alla squadra rossoblu di restare ai massimi livelli in Serie A. Sì, però possiamo dire insieme che insomma, fin qui 14 giornate nessuno si aspettava un rendimento di questo tipo, né dal Genoa né forse tanto più dalla Sampdoria. Sono d'accordo con te, nel senso che il Genoa credo che in questo momento soffre ancora di una certa discontinuità nei risultati, no? Travolge il Milan, travolge la Juventus, poi si ferma con alcune squadre, e non solo le travolge, ma io credo in entrambe le partite. A me è piaciuta moltissimo anche la vittoria del Genoa contro il Milan. Si è detto il Milan, il Genoa ha sofferto, no, il Genoa ha rallentato quando doveva rallentare, perché è inevitabile che era impossibile tenere quei ritmi per tutta la partita, però ha controllato la partita. Mi ha sorpreso moltissimo la Sampdoria, ma non è stato, invece per la Samp non è un problema di continuità, era un problema in qualche modo più quello iniziale, più facile da prevedere. Perché? Perché io credo che Giampaolo sia un allenatore straordinario, sono un po' eccessivo ripeterlo sempre, però credo che sia davvero, davvero uno dei top allenatori in Italia, ha un calcio pieno di idee, pieno di lavoro, che deve essere assimilato dai giocatori. Non era facile, è al primo anno alla Sampdoria, Carla Samp molto è cambiato anche durante la campagna estiva, della campagna del mercato estivo, molti giocatori sono arrivati e partiti all'ultimo momento e quindi è stato difficile assimilare quelli che erano gli insegnamenti di Giampaolo. Anche per questo non faccio in questo momento previsioni su Muriel resta o Muriel va, però probabilmente, visto che non tutte le richieste o le necessità in attacco della Sampdoria sono state soddisfatte durante l'estate, sarebbe davvero un peccato che in questo momento Muriel venisse ceduto a fine campionato con calma e quando... ancora di più. Sono d'accordissimo. Certo. Senti, la storia di Cassano in qualche modo anche triste, no? Qualche modo anche triste. Spero che riesca a trovare un posto dove giocare ancora un po', perché lui ne ha voglia. Sentire che si cambia col magazziniere, che adesso si allena con la primavera. Si allena con la primavera. Allenarsi con la primavera. Sì, è una storia, due personalità forti. Cassano sicuramente non vuole abbandonare Genova perché ormai è la sua città, è la città di sua moglie, dei suoi figli. Quindi insomma è giusto che abbia anche questo, voglia aver rispettato questo aspetto della sua carriera, però sono personalità forti, quella di Ferrero e quella dei suoi collaboratori e quella di Cassano. Non si è riuscito a trovare un accordo, sembrava che potesse trovare un accordo con l'Entella e poteva essere quella comunque un'esperienza nuova, perché l'Entella, che è la squadra di Chiavari, del presidente Gozzi, insomma è una squadra che comunque rappresenta una realtà importante, nuova nel calcio italiano, però non si è trovato un accordo. Non lo so, io sono un tifoso di Trampantonio, quindi spero che, credo che possa dare ancora molto, non credo che sia più possibile farlo alla Sampdoria. Anche in questo però Giampaolo mi pare fino a questo momento sia stato molto bravo e comunque aiutato e coperto dalla società nel gestire la situazione. Era difficile, perché insomma, io fossi un allenatore non saprei dire voglio Cassano o non voglio Cassano. No, quantomeno c'è stata comunque coerenza in una decisione presa all'inizio, anche nei momenti in cui magari in cui uno dice ma però avessi avuto in campo quei 10 minuti Cassano. Giampiero, ti ringrazio tantissimo, ci sentiamo grazie presto. A voi ragazzi, ciao, a presto, ciao, un abbraccio, ciao Giampiero Timossi. Chiudiamo qui questa puntata scoppiettante, direi, con l'annuncio del ritiro di Nico Rosberg, che ci ha un po' scompaginato i piani e i pronostici. Intanto aspettiamo un weekend di grande calcio, poi da domenica alle 17 anche con Giovanni Capone ne parliamo insieme. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzoni in redazione, ciao a tutti.